ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio in queste domeniche di settembre, un po' sonnolente con il pensiero ancora all'estate, ma anche il desiderio di ripartire con curiosità a spasso per l'Italia. Il sommario. Questa settimana torniamo a camminare, una nostra passione, due le proposte, Costiera Amalfitana e la Via degli Dei. Poi parliamo delle vacanze in barca che possono durare anche un solo giorno e poi andiamo a conoscere Grado. Se ci ascoltate da un po', saprete ormai che ci piace molto parlare di cammini, un modo di viaggiare che quest'anno è stato davvero tanto apprezzato. Da oltre 40 anni, tra terra e cielo, offre viaggi in ogni dove in Italia e, quando possibile, anche all'estero. Maurizio Baldini è l'anima dell'associazione. Nonostante tutto, il camminare nella natura, secondo me, ha avuto anche un effetto di liberazione, perché se nella natura il virus non c'è, il vento lo disperde, il sole lo uccide, quindi è un ambiente sano, che sia mare o montagna, secondo me le vacanze sono un posto buono per stare lontano, per disinfettarsi e per fare vacanze sicure, ecco. E quindi, nonostante tutto, nonostante che fino a tutto maggio, insomma, tutto era fermo, poi da giugno in poi, certamente dal 6 giugno, con un bel viaggio sulla costa da Piombino, sulla costa tirrenica, da Piombino a Populone, a San Vincenzo, abbiamo ricominciato a camminare, e bene o male i cammini estivi li abbiamo fatto con più italiani, meno stranieri. Non abbiamo fatto viaggi all'estero, che per vari motivi, sia per voli che per norme diverse da Stato a Stato, non si potevano fare, però i viaggi italiani li abbiamo fatti con grande soddisfazione. Visto che appunto comunque siete riusciti a fare più o meno quello che era tutto il vostro programma, raccontaci anche un po' qual è stato il sentimento che ha accompagnato i vostri ospiti, perché comunque si è trattato di un'estate molto particolare. Ma il sentimento iniziale era un po' di diffidenza, insomma, e quindi la richiesta era molto di camere per i singoli, che ci sono anche molti singoli, era di avere camere singole. Poi il distanziamento lungo il cammino è sempre garantito, perché lo spazio c'è, puoi stare 2-3 metri dai distanziamenti, così anche. Però devo dire che dopo il primo incontro, in cui tutti più o meno arrivano con le mascherine a debita distanza, tutti attenti, poi nel giro di mezza giornata, insomma, le persone poi, non so, è come se si sentissero congiunte, quindi hanno voglia anche di stare insieme. In parte sono amici, insomma, le persone che vengono, ma c'è il singolo, c'è la coppia, c'è il gruppetto di amici, ma poi, insomma, il cammino, secondo me, è fraterna, uno si sente abbastanza fratello, amico e congiunto, quindi si sente anche abbastanza tranquillo nel camminare fianco a fianco a una persona che ha conosciuto magari il giorno prima. Come avete riorganizzato, se ci sono stati, diciamo, dei particolari accorgimenti per appunto mettere ancora di più a proprio agio le persone che si sono avvicinate ai vostri cammini, ai vostri viaggi? Ma noi, diciamo, sì, dal punto di vista formali abbiamo rispettato tutte le regole imposte, quindi mascherine, distanziamento, e poi tutti i nostri ospiti sono ospiti registrati, quindi avevi nome, cognome, indirizzo, e eventuali contagi potevi comunicare a tutte le persone che hanno partecipato al viaggio. Insomma, direi che non c'è stato nessun caso segnalato, diciamo che tutte le norme, i cartelli, gli avvisi prima e all'inizio e durante, i fogli da firmare, mascherine, disinfettanti, eccetera, li abbiamo rispettati. Però, dicevo, come nostra tradizione, insomma, di Terrecelle, che sono 41 anni che fa viaggiatori di vacanze, c'è questo aspetto anche così conviviale del stare insieme, del fare gruppo, del condividere. Non riesci a stare più lontano, insomma, di un giorno, poi dalle persone che magari con cui trovi feeling, trovi simpatia, trovi comunanza di idee, e quindi c'è voglia anche di parlarci a meno di 2 metri di distanza. Volevo anche ricordare così il nostro motto, insomma, no, dopo 40 anni di attività, che sono walk it out, cioè camminare, mangiare bene e avere buone relazioni. La relazione, insomma, al di là del servizio che noi facciamo, la guida, l'alloggio, la vita, la relazione con persone affini, direi che è uno degli obiettivi che, bene o male, spessamente o no, abbiamo nel partecipare ai viaggi di gruppo, ecco. Maurizio, entriamo un po' più nel dettaglio. Raccontaci un po', visto che l'estate volge al termine, ma secondo me forse quest'anno ancora di più le persone hanno proprio voglia di cercare di staccare anche durante l'anno, anche la tensione, no? Perché questa situazione determina, genera una tensione in tutti noi, quindi trovare momenti più o meno lunghi per spezzare insicurezza e quindi andare a vedere posti nuovi, magari sarà qualcosa che ci accompagnerà nel corso anche di tutto l'autunno, l'inverno e poi il prossimo anno. Quali sono alcune delle proposte alle quali avete lavorato tra le tante che avete messo a punto? Prossimi viaggi in partenza ci sono Costiera Amalfitana, ci sono Sibillini. Partiamo dalla Costiera Amalfitana. Allora, Costiera Amalfitana è un viaggio che noi facciamo da anni, in cui abbiamo scelto percorsi, posti per alloggiare con una guida esperta come Andrea Zanubini, appassionato camminatore, scalatore, insegnante universitario, e che ci porta a camminare in un posto che è stato classificato patrimonio dell'UNESCO dal 97. Praticamente è un terrazzo sospeso tra le acque del Tirreno e l'azzurro del cielo. È un posto dove si incontrano coltivazioni di limoni, spiagge, abitazioni affacciate sul mare, nascoste in un labirinto di sentieri e vie antiche. Si cammina sul mare, ma attenzione, non è un viaggio facilissimo, è un viaggio che noi nella nostra scala da 1 a 4 diamo 3, perché c'è da camminare in su e giù, sempre con vista sul mare, arrivando poi nei posti deliziosi dove dormire, dove mangiare, però è anche un viaggio impegnativo in cui si cammina zaino in spalla, portandosi poi poche cose, perché poi si dorme in buoni alberghi e quindi il carico da portare è abbastanza leggero. Maurizio, questo per quanto riguarda il viaggio a fine settembre, è ancora mare, l'abbiamo già detto, è un viaggio che comunque è impegnativo, del resto la costiera è impegnativa anche se ci si arriva in macchina. Spostiamoci un po' più verso nord, perché mi parlavi di un cammino che è un po' un classico, che è quello da Firenze a Bologna. Da Firenze a Bologna è un nostro classico, è un cammino che è stato poi riscoperto in anni recenti come una via militare dei tempi dell'epoca romana. È stato riscoperto in anni recenti appunto proprio il basolato, cioè il facciato della via che collegava Bologna con Firenze e poi Arezzo fino a Roma, appunto, che è l'antica via Flaminia militare. È un percorso tutto in Appennino, quindi pendenze abbastanza lievi, però insomma non è un viaggio facilissimo, che anche qui si viaggia con lo zaino in spalla, anche se è possibile avere il trasporto dello zaino, si cammina in mezzo a boschi con dei panorami sull'Appennino, si cammina per piccoli paesi in cui si dorme in piccoli alberghi, situazioni a differenza della Costiera Amalfitana, che è chiaramente un posto molto turistico, quindi pieno di turisti. Praticamente i posti dove si dorme in Appennino sono piccole strutture che sono state rivitalizzate, ornate o riempite grazie al cammino, che è uno dei cammini molto in voga negli ultimi tempi, quindi si trova sempre camminatori su queste zone e quindi sono cresciute anche le possibilità di ospitalità. To forget. Per sentirsi più sicuri si può camminare, lo abbiamo raccontato, e si può anche andare in barca, e ve lo raccontiamo adesso. Click and Boat è il punto di riferimento per il noleggio di imbarcazioni, che sia per una settimana o un giorno solo. Valeria Galli è la Marketing and Press Manager. È stata un'estate veramente particolare e soprattutto cominciata, diciamo, non nel migliore dei modi, in maniera un po' insolita rispetto a quello a cui eravamo abituati. Quello che c'è magari da dire è che comunque sì, alla fine del lockdown noi siamo sicuramente stati tra le compagnie più fortunate comunque nel settore del turismo, anche perché sì, come anticipato, diciamo che molti viaggiatori si sono avvicinati al mondo della navigazione, in primis perché hanno magari cominciato a vederla un po' come un'alternativa papabile, perché la barca di per sé è quella che porta un po' a fare vacanze isolate, un po' lontane dai centri cittadini che generalmente sono un po' più affollati, c'è un po' più di confusione, quindi sicuramente questo è stato uno dei motivi che hanno spinto, ecco, i viaggiatori a scegliere questa opzione rispetto a tante altre. Quindi sicuramente la nostra estate, diciamo, che si è evoluta poi pian piano in maniera abbastanza positiva, appunto perché siamo diventati un'opzione più papabile rispetto agli scorsi anni. L'estate speriamo che non sia ancora finita, che ci possa riservare ancora giornate, se non settimane, ancora di sole e di mare. Quali sono le proposte che mettete in campo per questo periodo dell'anno? Allora, le proposte che mettiamo in campo chiaramente sono tantissime, quest'anno poi più italiane che mai, anche perché diciamo che un po' per volontà e un po' per costrizione, per tutte queste nuove regole e barriere, gli italiani poi hanno scelto e stanno ancora scegliendo di restare in Italia. Questo è stato sia per i mesi di alta stagione, ancora per le vacanze di settembre, tantissime proposte e soprattutto tantissime richieste per destinazioni un po' più classiche come la Sardegna, come il Golfo di Napoli, come la Liguria, perché poi magari si spinge verso la Toscana, verso le Cinque Terre, quindi proprio le classiche destinazioni estive, e qualcosa di un po' più differente dall'anno scorso, come ad esempio la zona magari di Gallipoli, la zona di Tropea. Comunque diciamo che c'è stato un interesse e stiamo vedendo un interesse ancora tutt'oggi per veramente tantissime destinazioni italiane che magari anche negli scorsi anni erano un po' meno considerate. Vediamo soprattutto tante richieste per barche a vela che magari danno una sensazione un pochino differente, che hanno un'esperienza un pochino differente rispetto a quello che è la classica navigazione data dalla barca a motore, come ad esempio magari anche i catamarani, che quest'anno alle Isole Eolie sono diventati quasi un must, se così vogliamo dire, e quindi diciamo che la scelta tra le differenti imbarcazioni è tantissima, dalla classica magari famiglia che vuole fare un'esperienza differente in barca a vela, a coloro che vogliono qualcosa di un po' più rilassante, magari vogliono condividerlo tra amici anche per abbassare i costi di noleggio, con un catamarano che facilmente può ospitare dalle 8 alle 10 persone, 12. C'è qualcosa anche di un po' più insolito nei trend di quest'anno, quindi con le scelte anche dei laghi, chiaramente per magari tante persone che dal nord Italia non se la sono sentita di viaggiare verso altre destinazioni italiane, e quindi hanno magari preferito un weekend al lago di Como, un weekend al lago Maggiore, o anche solo prendere la barca per fare una giornata diversa dal solito, con poi rientro, magari una cena, ecco, o un hotel più tranquillo nella destinazione. Quindi diciamo che le proposte sono tantissime e chiaramente tutte basate in relazione agli interessi un po' differenti che quest'anno si sono sviluppati. Leggevo tra l'altro perché in effetti è insolito, no? Pensare al noleggio di una barca per andare sul lago, però leggevo anche di fiumi e canali. Assolutamente sì, una delle destinazioni più classiche può essere chiaramente la Laguna di Venezia, che è uno dei luoghi iconici del nostro Nord Italia. Possiamo aggiungere destinazioni vicine che possono essere ad esempio Chioggia, Canale sul Sile, che sono tutte destinazioni veramente molto molto particolari, generalmente considerate un po' meno, specialmente dagli italiani, perché la nostra cultura tende più alla navigazione marittima. Ma ecco, grazie a proprio questa estate insolita, nuovi interessi si sono un po' andati a sviluppare, quindi probabilmente anche le nostre tendenze e voglie in fatto di viaggi. Quindi esattamente si può noleggiare una barca, generalmente anche senza patente, perché sono barche che hanno meno potenza, che navigano più dolcemente, più lentamente, sono barche molto adatte alle famiglie. Quindi sono diventata un'opzione assolutamente papabile, diciamo un po' più gettonata da parte degli italiani, per viaggiare tranquillamente sui canali, per farsi un weekend molto rilassato, molto tranquillo, un po' più in contatto con la natura e chiaramente anche un po' diverso dal solito, ecco. Senti Valeria, cerchiamo di dare due indicazioni per chi volesse magari per la prima volta fare questo tipo di scelta, perché mi sembra di capire che comunque sia forse anche molto più semplice di quanto uno possa immaginare noleggiare un'imbarcazione, piccola o grande che sia, a seconda delle necessità e quindi fare questo tipo di vacanza. Sì, chiaramente sì. Diciamo che la Click & Boat è dotata di un team che è altamente organizzato, un team che soprattutto parla italiano e al quale i clienti possono rivolgersi per organizzare nei dettagli tutte le loro vacanze, tutti i loro viaggi e soprattutto per essere supportato durante il processo di noleggio e magari per trovare maggiori informazioni in relazione alla barca ideale, la rotta ideale, soprattutto per chi non è così esperto di navigazione. Per coloro che invece magari hanno già avuto qualche esperienza o si sentono un po' più sicuri nel processo di noleggio online, la piattaforma mette a disposizione comunque la possibilità di contattare direttamente i proprietari attraverso un sistema di messaggeria che è completamente gratuito, attraverso il quale ecco, loro possono direttamente chiedere informazioni, magari definire i dettagli del noleggio, essere comunque in contatto ogni momento con i proprietari per definire tutti quelli che sono gli aspetti delle loro vacanze. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Globetrotter 24. Parliamo ancora di mare e lo facciamo raccontando Grado, conosciuta anche come l'Isola del Sole. A parlarci di Grado è Thomas Sawyer, presidente del Consorzio del Turismo. Grado, come lei ben sa, è un isolotto, circa 5-6 chilometri dalla terraferma. Viene anche chiamata Isola del Sole proprio per la sua bellezza e per le sue spiagge dorate. E Grado è una cittadina con circa 8-9 mila abitanti. Fra Venezia e Trieste è una meta molto gettonata sia dei turisti italiani del nord-est, come anche di tanti austriaci e bavaresi che da anni frequentano le nostre spiagge e la nostra cittadina. Quindi si può anche dire che Grado è un po' anche un incontro di diverse culture. Esattamente, a Grado, proprio a causa della sua posizione vicino il confine austriaco e vicino il confine sloveno e croato, è proprio un piccolo melting pot di varie culture, della cultura italiana, della cultura austriaca, mitteleuropea e della cultura slovena. Allora, lei è il presidente del Consorzio del Turismo. Ci racconti un po' Grado, visto che state anche cercando di attirare sempre di più visitatori. Ci racconti un po' lo spirito anche che si vive a Grado. Grado è una piccola cittadina situato in questo lembo di spiaggia, di sabbia, che noi offriamo, a parte del prodotto mare, che naturalmente nel periodo estivo da giugno a settembre è la cosa più importante, ma naturalmente abbiamo anche un forte indirizzo culturale, enogastronomico, sportivo e anche naturalistico, perché noi dobbiamo pensare che abbiamo circa 16.000 ettari di laguna che va dalla foce di Isonzo fino al Tagliamento con tutti i suoi isolotti, che è un incanto naturalistico, si potrebbe dire. E così Grado non offre solo il classico soggiorno al mare con la spiaggia, il sole, ma anche delle possibilità come possono essere sportive, che quest'anno con lo sport individuale sono molto gettonati. Mi riferisco lì a delle piste, noi abbiamo circa oltre 40 chilometri di piste ciclabili, che ci sono delle possibilità di fare varie escursioni. Si può andare per esempio nella vicina Aquileia, che sono 10-12 chilometri a nord di Grado, si può andare in Val Cavanata, alla foce dell'Isonzo, per ammirare la laguna e naturalmente fare anche nel periodo autunnale come adesso un po' di bird watching. E con questa varietà mi permetto di dire che Grado ha una marcia in più di altre località, no? Perché così c'è anche un forte interesse culturale e di informazione verso tantissime possibilità. Immagino che anche voi abbiate dovuto lavorare molto sul fronte della sicurezza, perché chi si muove quest'anno e anche nei mesi prossimi vuole avere tutte le garanzie per muoversi in sicurezza, e questo ovviamente anche per non mettere da parte il desiderio di andare a vedere e andare a conoscere. Sì, naturalmente il 2020 è un anno molto difficile, ma devo dire siamo fino adesso riusciti a affrontare questo tema con serenità. Grado, anche essendo piccola, ma naturalmente ha delle aree vaste, e così anche per esempio sulle tre spiagge che noi abbiamo, la spiaggia principale, chiamato anche la spiaggia dell'Imperatore, la Costa Azzurra o Grado Pineta, con il distanziamento dei ombrelloni siamo riusciti a offrire ai ospiti un soggiorno al mare in piena sicurezza. Senta, Presidente, oltre al fatto che appunto si può venire per apprezzare le spiagge, per andare in bici, per fare sport all'aria aperta, c'è però anche l'aspetto enogastronomico che stuzzica sempre. Naturalmente Grado è famoso anche per l'enogastronomia, soprattutto per una pietanza che anche oltre confine viene apprezzato dei ospiti. Il boretto alla gradese, che è una zuppa di pesce con delle varie varietà che si possono fare con del rombo, con dell'asiago, con del cefalo. E la parte particolare sarebbe questa, che non come su tante altre zuppe di pesce non viene utilizzato il pomodoro. Naturalmente i nostri ristoratori che si trovano sparsi su tutta l'area, ma soprattutto anche nel centro storico, nelle nostre vie e piazze, è un punto di incontro molto romantico. Lei deve pensare che in un centro urbano tutto pedonale, sotto questo aspetto, è un momento incantevole dove un cliente può gustare le pietanze del luogo. Accompagnati anche da un buon vino. Esattamente, il Collio Goriziano è molto vicino, neanche 40 km da Grado. Abbiamo delle cantine molto famose, molto gettonate, e si abbinano benissimo i vini bianchi del Collio Goriziano con il pesce fresco della laguna o del mare di Grado. Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.